later than you think. La fabbrica di polli si sente da lontano, il sordido richiamo di una vita in batteria. Dietro quei cancelli che cosa nasce prima? L'uovo, la gallina, le penne o i calamai? La fabbrica di polli produce, mentre nella fabbrica di polli restano da visitare mille angoli inesplorati, Kappa e Drago decidono che è ora di farla finita. Di qua, Drago. Drago, per vabbè, di qua. Ma li leggi i cartelli, guarda, dicono chiaramente vietato l'accesso. Vabbè, d'accordo, da quando è che leggi i cartelli tu e da quando è che segui le istruzioni che vedi sui cartelli, vorrei saperlo. E poi scusa, se fosse scritto fatevi cogliere dalle convulsioni, tu cosa fai? Ti getti a terra, ti torci come un lombrico, vabbè, perché c'è scritto lì? Sì, se fossi in uno stato di polizia probabilmente sì, se no mi arresterebbero. Qui siamo in Italia, Drago, l'Italia non è uno stato di polizia. Quindi... qui non siamo in Italia, capo, siamo nella fabbrica di polli. You are the cattle. And we are the keepers. Vedi? È qui, eccoci. Direzione dei programmi. Questo qui è l'ufficio del direttore. Ma perché programmi? Non bastava direzione. Perché qui si compilano i programmi della produzione dei polli. È semplice, sempre far domande tu. Però finora non abbiamo incontrato nessuno. Sembra che sia tutto deserto, anzi disertato. Va bene, proviamo a bussare, Drago. Aspetta, aspetta. Cosa c'è? Come stanno i capelli? Ma cosa c'entrano i capelli adesso? Davanti al direttore bisogna essere impeccabili, no? Dopo anni di fabbrica non sarebbe impeccabile nemmeno Brian Ferry, Drago. Non ti preoccupare, dai. Ma niente, c'è nessuno. Proviamo a entrare. Tutto buio. Nessuno. Direttore? Prova a far luce. Direttore? Oddio, ma chi c'è? Ma... Pollo in sbattimento. Ma siete voi due? Madonna, che spavento. Pensavo fosse il direttore. Infatti qui dentro dovrebbe esserci il direttore, non il pollo in sbattimento. Lo so, ma qui lui non c'è mai, Ecco. Ancora meno dell'amministratore delegato. Quindi tu usi il suo ufficio come nascondiglio? Ma qui si dorme bene, Niente puzza, aria condizionata, frigo bar... televisore, ghigliottina per sigari, DVD. No, vabbè, quello lo stavo guardando io, Ma perché hai spento? Almeno vedevamo come andava a finire. Scusa. Come andava a finire, secondo te? La cosa pazzesca è che il direttore non c'è mai e ha un ufficio così. Io, che ci sono sempre, vivo in mezzo alla cacca di pollo. Ma vi sembra giusto? Vabbè, tu, pollo, dovresti già essere stato macellato, quindi ringrazia il cielo per quel poco che hai. Drago, adesso con calma cerchiamo chiavi, telecomandi, password, tutto quello che ci serve per provare a uscire di qua. Vabbè, forza. Io comincerei dai cassetti, quindi, pollo, dacci una mano. Dai, c'è una cassaforte qua. Ma che ne so io? Io volevo dormire, voi siete venuti a rompere le scatole. Ma che sbattimento adesso! Pollo, vogliamo uscire? Uscire, capisci? Uscire! Vabbè, ma da quando è che è venuta la smania? Vabbè, da quando K si è reso conto che questo non è il sogno in cui è sempre mezzanotte, ma è la sua realtà. Vabbè, anche la tua. Ma siete bambo o cosa? Per forza che questa è la vostra e la nostra realtà. Avevate dei dubbi? Questa è la realtà. Una fabbrica puzzolente e un continuo sbattimento. E io sono sbattimento, Il divertimento è uno sbattimento. Ed il talento è uno sbattimento. C'è il talento. L'allenamento è uno sbattimento. Allenamento no, Ogni momento è uno sbattimento. Sì. Il giuramento è uno sbattimento. No, io no. Su con il mento è uno sbattimento. Ma quale mento? Esser contento è uno sbattimento. Contento io. Il mio Nintendo è uno sbattimento. Il tuo Nintendo. Vivo il mio tempo di grande fermento. Che gran sbattimento la vita mi dà. Da sbattimento! Sbattimento, La fabbrica di polli. Joao, ma hai di nuovo preso una nota a scuola? Ma io ho fame, Ma è la quinta in 5 giorni! Ma si può sapere cos'hai in quella testolina lì? No, perché guarda che tu con me caschi male, eh. Io sono mica uno di quelli che prendono le parti dei figli contro i professori, eh. Eh no, eh. E tu non sei proprio mio figlio. Però l'educazione devo dartela io. E la prima regola dell'educazione è vai bene a scuola. Poi, finita la scuola, puoi anche sfasciare tutto e diventare un mujahideen. Però prima impara qualcosa di serio, va? Che ti sarà sempre utile. Quindi, se i professori ti fanno le note di condotta, io non me la prendo con loro, come si usa adesso, eh? Eh no? Se tu mi arrivi con una nota, io ti ricompenso con un calcio nel sedere. Aia. E con una roccolata in testa. Aia. Aia. Eh sì, eh? No, perché adesso, dappertutto, i genitori vanno con la pistola a minacciare i presidi. Invece io con la pistola minacciare gli studenti. Perché ormai siamo arrivati a dei livelli inconcepibili. Arrivano con il cellulare, vestiti come dei malati mentali. Le ragazzine con l'ombelico roseo che sventola nudo davanti al naso del povero professore di mezza età. Che questo non è mica male. No, perché ai miei tempi a scuola le ragazze venivano con sulla gonna scozzese chiusa dalla spina da baia, le ballerine ai piedi, le camicie con il colletto di pizzo e il pullover rosa sopra. Mamma mia, ma questo era proprio l'antisesso. Adesso invece, Joao. Ma io fama why? Yama mai. E appunto. Però tra studenti e professori continuo a stare dalla parte dei professori. Anche se io odio le autorità. Ma quando le autorità se la prendono con sti molaccioni adolescenti, allora me stanno simpatiche. Cappa, Drago. Mi giungono voci allarmanti. Qualcuno ha fatto la spia e mi ha detto che voi state tramando, state facendo di tutto per andarvene dalla fabbrica. Ora, io capisco che voi possiate avere nostalgia delle vostre banali cose di tutti i giorni, io lo so perché vi conosco, insomma, voi siete gente che state lì a fare i duri, fate i duri, cioè cercate di far capire che a voi non interessa, che siete, ma in realtà poi vi manca il vostro cuscino, vi mancano le vostre lenzuoline cambiate dalle vostre mamme, cominciate ad avere questa nostalgia per cui volete andare via, ma tanto è inutile, è tutta energia sprecata. Mi seguite in questo discorso, state disperdendo energia, voi non potete andarvene dalla fabbrica di polli e quindi cercate di convogliare la vostra energia su qualche cosa di utile, cercate di spingere tutta la vostra energia verso lo stare bene ma nella fabbrica di polli. Voi ormai non potete stare bene in nessun'altra parte, potete stare bene solo lì perché quello è il vostro destino e quindi smettetela di rompere le balle. Niente, non si trova niente. Il direttore Balzani evidentemente non ha né le chiavi, né i telecomandi, né le password per aprire i cancelli principali, quindi almeno nei cassetti ho trovato solo un rosario, un libro di Douglas Adams, un saggio sulle mine anti-uomo, tutto qua. Veramente un santo. Pensa se invece avessimo perlustrato l'ufficio dell'amministratore delegato, cosa avremmo trovato? No, non voglio pensarci, non voglio neanche pensarci. Però magari in mezzo alle cose a cui tu giustamente non vuoi pensare, avremmo trovato le chiavi, i telecomandi, le password, le tessere magnetiche, tutto il necessario per mettere il naso fuori. L'ufficio dell'amministratore delegato è controllato personalmente da Gaston, lo sai, Gaston, il mitico mercenario belga. Drago, quello che mangia solo tartare humain. Com'è tartare humain? Tartare umane? Sì, ma tartare humain. Ma è terribile. Vabbè, ma certo, Gaston è terribile. Non odio il data. E de bull. La data e de bull. La data e de bull. E de frit. A nous en belge. Amor. Che cosa succederà adesso? Lo spauracchio di Gaston. Basterà convincere Capa e Drago a desistere dai loro propositi di fuga e le tartare umane di cui si nutre Gaston, chi le fornisce? La risposta a questi interrogativi non arriverà mai, ma sintonizzatevi domani a mezzanotte su Radio 3 per il prossimo antropofagico allestimento de... La fabbrica di polli produce, non muoce quasi mai. La fabbrica di polli, un programma di Cappa e Drago prodotto dall'Istituto Barlumen. La fabbrica di polli è trai.it, barlumen.com.